Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Buona domenica a tutti, è in sergante il traghettatore. Cominciamo con una nota positiva: cresce la fiducia dei cittadini nel non profit. È il risultato dell'ultimo rapporto Euripes che dà partiti e sindacati che perdono consenso, ma proprio il no profit è quello che invece contribuisce alle scelte di orientamento sulla spesa pubblica e a rendere possibile che quello che viene definito un patto trasparente fra pubblico e privato, che potrebbe, perché no, sostiene la ricerca, portare anche a un cambiamento della politica che ovviamente auspichiamo tutti. Proprio la politica invece, la grande assente dai media, secondo lo studio InfoWatch dei praticanti della scuola Walter Tebagi di Milano, soltanto l'1% dello spazio dei giornali è dedicato proprio a quello che invece è per Ferry Boat il Vangelo. E lo è anche il no profit il Vangelo per il Green Social Festival di Bologna, che parte mercoledì 9 marzo, 4 giorni di grandi appuntamenti, ce ne parla l'organizzatore Paolo Amabile. Buongiorno a tutti. Sì, parte fra ormai qualche ora, un appuntamento crediamo unico nel suo genere nel nostro paese, un appuntamento che cerca di costruire qualcosa di positivo guardando al nostro futuro, e quindi abbiamo investito molto sulla presenza dei ragazzi delle scuole. Sono un festival per sua natura che ospita tanti appuntamenti di segno diverso al suo interno, quindi mostre, convegni, spettacoli, tante attività, ma la parte che ci preme sottolineare è il lavoro che è stato fatto verso la presenza delle scuole. Abbiamo già l'adesione di migliaia di ragazzi, questa è una nota per noi assolutamente straordinaria e positiva, i quali parteciperanno al festival sotto la forma o di attività di gioco, attività didattiche, che comunque sono sempre improntate ai temi del festival, oppure alle lezioni del palcoscenico, per cui parteciperanno a delle vere e proprie meeting con dei tecnici, degli esperti, ma anche comunicatori, per affrontare i contenuti di fondo del green, e quindi i temi dell'alimentazione, del vivere sostenibile, dell'energia, della mobilità. Una forma, credo, assolutamente originale, ma per noi entusiasmante. Facciamo qualche nome amabile sui grandi artisti che parteciperanno, sia come cabaret che anche sotto forma di mostre al Green Social Festival. Sì, i personaggi partecipano sia appunto con la loro parte tradizionale di spettacolo, oppure anche come parte di comunicatori. Abbiamo da Nieri Marco Re, che farà un incontro con i ragazzi sui temi della cultura, Bertolino sui temi della comunicazione, Parasole sui temi del biologico, Paola Maugeri che racconterà la sua esperienza che ha fatto in televisione, grazie alla televisione, di vita a impatto zero. E poi abbiamo dei veri e propri tecnici che racconteranno ai ragazzi come si costruisce una casa con risparmio energetico, che cos'è l'auto elettrica, quindi tanti temi di approfondimento nelle forme diverse per cercare di trasmettere ai ragazzi degli elementi di conoscenza, di approfondimento e anche, perché no, di poter migliorare la loro qualità della vita guardando a un futuro migliore. Senza rinunciare ovviamente anche alla forma più tradizionale, quella dei convegni, mi sembra che il Green Social Festival sia diventato un po' il polo di attrazione del mondo della sostenibilità in Italia in questo momento. Beh, lo speriamo, lavoriamo per questo, soprattutto avendo un po' di pratica di organizzazione di festival, contiamo che l'anno scorso e quest'anno siano state messe le basi per guardare al futuro e raccogliere nel nostro festival un po' tutte le esperienze, le opportunità da poter rappresentare al pubblico dei giovani e non solo, anche qui tramite forme diverse di presenza, che sono le associazioni di volontariato, di no profit, sono le aziende, sono le istituzioni, quindi una miscellanea di tante opportunità diverse che crediamo possa rappresentare uno spaccato importante al quale Bene. Il pubblico possa trovare Grazie. Sicuramente degli interessi. Grazie, in bocca al lupo. Ci spostiamo a Torino, dove è stato inaugurato un singolare hub, questa volta non è un marchingegno digitale ma interculturale. Nelle ex officine di Via Cecchi a Torino c'è questo spazio dedicato ai giovani e alle scuole, con eventi, iniziative, che è rivolto proprio specificatamente ai temi della multiculturalità. Ci sarà anche uno spazio atelier che accoglierà le associazioni degli immigrati e le attività commerciali che poi hanno il compito di finanziare l'esistenza stessa dell'hub. Vi ringraziamo anche per oggi. In redazione ha collaborato Anita Panizza, in regia Valeria Bernardi. A risentirci.